televisione. Stupide spugne immerse di fango. Mentre la passare in materia oppressi. Intera regione, i vostri progressi. Non riuscirete mai ad essere come noi. Mettere ed altrimi sono il nostro cuore. Non riusciranno tutti i soldi del tuo mondo. Per essere uno di noi. Odio, odio tutto quello che ti do. Odio, odio tutto quello che io ho. Odio, odio, io sono la polizia. Odio, odio, che non è colpa mia. Ancora oppressi, non siamo stati oppressi noi. Non siamo stati ancora oppressi, non siamo stati oppressi noi. Non siamo stati ancora oppressi, non siamo stati oppressi noi. Non siamo stati ancora oppressi.